Dunque, la situazione è abbastanza critica e delicata perché l'amministrazione Trump qualche settimana fa ha cominciato ad applicare una politica cosiddetta di tolleranza zero, cioè le persone che oltrepassano il confine illegalmente, il confine che separa il Messico dagli Stati Uniti, ma sono per la gran parte persone che non vengono dal Messico ma da paesi dell'America Centrale come El Salvador o il Guatemala, quindi persone che avrebbero anche probabilmente i requisiti per chiedere asilo, le persone che oltrepassano questo confine vengono fermate e trattate come, diciamo, delle persone che hanno commesso un reato penale, cosa che prima invece non avveniva. Quindi vengono incarcerate e quindi, come per qualsiasi altra persona sospettata di un reato di questa gravità, quando sono in presenza di minori, quindi spesso, molto spesso i loro figli, non possono essere detenuti insieme ma vengono detenuti da un'altra parte. Quello che sta succedendo quindi è che queste persone, i genitori diciamo, vengono detenuti in attesa di un processo al termine del quale nella gran parte dei casi verranno espulsi. I minori invece restano lì, possono essere prelevati in queste che sono di fatto delle prigioni, abbiamo visto anche le foto, sono delle gabbie in cui stanno in gruppi da 8, da 12, rimangono lì finché non vengono prelevati da un cosiddetto sponsor, cioè un membro della loro famiglia che è già residente negli Stati Uniti, ma molti hanno paura a farsi avanti perché magari hanno dei parenti irregolari o sono loro stessi irregolari, altrimenti rischiano di essere dati in affido o in adozione e quindi diciamo di non essere più ricongiunti con i loro genitori. Oggi il ricongiungimento di questi bambini con i loro genitori non è una priorità dell'amministrazione, non c'è nemmeno un percorso burocratico definito per arrivare a questo ricongiungimento. Questa azione intrapresa dall'amministrazione Trump quanto ha a che fare col fatto che in questo momento si stanno discutendo in Senato le future politiche sull'immigrazione negli Stati Uniti? Ha molto a che fare con tutto questo, anche perché gli Stati Uniti già da prima dell'arrivo di Trump hanno bisogno di una riforma del sistema dell'immigrazione perché l'attuale sistema non funziona. Non è tanto, ne siamo abituati a leggere diciamo questo dibattito americano secondo le nostre lenti europee e noi qui sentiamo parlare molto di invasione da parte delle persone insomma che si ispirano anche a Trump nelle sue decisioni. Lì il tema non è tanto quello del non c'è lavoro per tutti, anche perché moltissimi anche repubblicani riconoscono che soprattutto nel sud degli Stati Uniti serve una manodopera che hanno portato soprattutto gli immigrati negli ultimi anni, ma la mettono molto sulla sicurezza e questo rende il dibattito ancora più complicato da affrontare. Trump è contrario alle leggi che si stanno discutendo al Senato che sono frutto di una parziale mediazione tra democratici e repubblicani e sta usando questa politica della tolleranza zero come arma nel corso della trattativa. Trump potrebbe interrompere questa politica domani, non ha bisogno del congresso, è una decisione che spetta semplicemente al governo, ma sta usando questa situazione dei bambini imprigionati, separati dalle famiglie per avere più voce in capitolo nella trattativa e arrivare a una riforma per lui più favorevole, tradotto che contenga uno stanziamento di fondi quantomeno per avviare la costruzione del muro al confine che ha promesso in campagna elettorale. Ecco, due domande insieme diciamo su questo tema. La prima è se la pressione che sta cercando di fare Trump è principalmente sui membri del suo partito o invece sui democratici, e la seconda è negli Stati Uniti comunque c'è una storia diciamo di grandi scandali mediatici che hanno cambiato anche l'andamento di alcune politiche. Quanto potrebbe avere effetto sulla popolarità di Trump la situazione di questo momento e se avrà effetto in modo positivo o negativo? Guarda, rispondo a partire dall'ultima. In altre epoche questa storia, queste foto, le foto dei bambini letteralmente imprigionati, l'audio registrato di nascosto da qualche guardia che ci fa sentire i bambini piangere, chiamare i genitori, avrebbero devastato l'immagine di qualsiasi presidente. Oggi siamo in territorio inesplorato, viviamo un'epoca in cui i criteri che valevano fino all'altro ieri non valgono più e quindi è difficile fare previsioni di questo tipo. Quello che sappiamo è che questa politica è molto impopolare nell'elettorato americano complessivamente, quindi i repubblicani compresi. Piace soltanto a un 25% di americani che potremmo descrivere come lo zoccolo duro di Trump, e questo può avere degli effetti sicuramente sulle elezioni di metà mandato che si terranno di fatto tra pochi mesi a novembre. Trump con questa decisione sta cercando di fare pressioni, e vengo alla prima domanda, soprattutto ai democratici, perché al Senato ha bisogno almeno di parte dei loro voti e se sul partito repubblicano ha una certa presa, perché comunque lui alla base del partito piace molto, i democratici lo vedono come il nemico giurato e quindi vuole soprattutto costringere i democratici usando i bambini come un'arma di trattativa. Allo stesso tempo però i repubblicani stanno facendo pressione su Trump. Il responsabile di tutte le campagne elettorali dei candidati alla Camera dei repubblicani ha criticato questa politica della tolleranza zero, così facendo autorizzando tutti i suoi colleghi e tutti i candidati a fare lo stesso, a distaccarsi da Trump, e quindi aumenteranno credo nei prossimi giorni le critiche dentro il partito per questa politica. Oggi è anche la giornata mondiale per il rifugiato. è di ieri notte la notizia che l'amministrazione Trump ha intenzione di ritirare gli Stati Uniti dall'organizzazione dell'ONU per i diritti umani. Quanto potrebbe avere effetto e quanto ha già avuto la politica di Trump sull'immigrazione a livello internazionale? Ha già avuto molto effetto, non tanto per un effetto diretto, perché naturalmente poi Trump può legiferare, avere un impatto soprattutto sul suo confine, un confine che comunque anche prima del suo arrivo era molto militarizzato e molto controllato, c'è già in buona parte di quel confine un'ampia recinzione prima del muro, ma ha un effetto indiretto vastissimo, perché diverse forze politiche che si ispirano a Trump, che sono state ringalluzzite dalla vittoria di Trump, per esempio in Italia e in Europa, trovano in Trump anche una fonte di sdoganamento delle loro idee politiche, lo stiamo vedendo anche nel nostro paese, questo è il momento in cui queste idee, una volta espressione di pochi estremisti, sono diventate idee molto mainstream, diciamo.